guai alla città sanguinaria, tutta frode, piena di rapina, che non cessa mai di sbranare. Schioccar di frusta, strepito di ruote, cavalli furenti, carri traballanti, cavalieri all'assalto, lampeggiare di spade, bagliori di lance, molti i feriti, una massa gli uccisi, innumerevoli i cadaveri, si barcolla sopra i morti. Per le molte prostituzioni della cortigiana, della bella favorita, dell'abile incantatrice che tiranneggiava i popoli con i suoi favori, le nazioni con i suoi incantesimi. Ecco, a te, dice il Signore degli eserciti, io scoprirò i tuoi panni fino al viso e mostrerò alle genti la tua nudità e ai regni il tuo disonore. Getterò su di te le tue lordure, ti ricoprirò d'ignominia, ti ridurrò ad essere uno spettacolo. Allora chiunque ti vedrà si allontanerà da te e dirà: Ninive, che desolazione! Chi potrà consolarla? Nessuno potrà trovar chi la consoli. Sei tu forse più forte di Tebe, che si adagiava sui canali del Nilo, che per avamposto aveva il mare, l'acqua le faceva da muraglia. L'Etiopia e l'Egitto erano la sua potenza, non aveva confini, Put e i Libi erano suoi ausiliari. Anch'essa è dovuta partire in esilio, andare in cattività. I suoi bambini sono stati sfracellati in mezzo alle piazze. Sopra i suoi nobili han gettato la sorte, e tutti i suoi grandi li han caricati di catene. Anche tu sarai stordita, verrai tiranneggiata, anche tu dovrai trovare uno scampo davanti al nemico. Tutte le tue fortificazioni sono come ficaie con i fichi primaticci. Se si scrollano, cadono nella bocca di chi li vuol mangiare. Ecco il tuo popolo. Sono donne dentro le tue mura. Davanti ai tuoi nemici si spalancano le porte della tua terra. Il fuoco ha divorato le tue serrature. Attingiti acqua per l'assedio, rinforza le tue fortificazioni, marcia nel fango, calca l'argilla, prendi la formella per i mattoni. Ivi il fuoco ti divorerà, ti distruggerà la spada. Ammassati come i bruchi, ammassati come le cavallette. Moltiplica i tuoi mercanti più delle stelle del cielo, le tue guarnigioni come le cavallette, i tuoi scribi come insetti. Si accampano sulle mura il giorno del freddo. Spunta il sole. I bruchi dispiegano le ali e volano. Vagano qua e là, né si conosce dove. Sventurati. Si sono forse addormentati i tuoi pastori, o re di Assur. Sonnecchiano i tuoi prodi. Il tuo popolo è disperso sui monti e non c'è chi lo raccolga. Non c'è rimedio alla tua ferita, la tua piaga è inguaribile. Tutti quelli che ne sentono parlare sono contenti della tua sorte. Infatti, sopra chi non è passato in ogni tempo quello che tu soffri?